Incontri di Gianfranco Fabi. Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a Francesco Midicia, che ha scelto Vasco Rossi per introdurre. Ecco, prima di presentare Francesco Midicia, perché ha scelto Vasco Rossi? Perché questa canzone Siamo solo noi? Sì, ma a parte Vasco Rossi, che comunque rimane pilastro sicuramente della canzone italiana, Siamo solo noi perché mai come in questo momento Elco ha scelto di distinguersi nel mercato, di essere unica nel mercato. Lo vedremo più avanti con tre aspetti in particolare che magari approfondiremo nel corso dell'intervista. Ecco, quindi cominciamo a fare marketing, ecco, a presentare Elco Midicia, ingegnere meccanico e vertice appunto di questo gruppo Elco che, come avrete capito, si occupa di energia. Diciamo che ha avuto, mi corregga se sbaglio, due grandi fasi nella sua vita. Prima si è occupato di motori, di Ducati, ha iniziato a lavorare come ingegnere meccanico in Ducati e poi è passato all'energia con il gruppo Elco. Ma vediamo allora di spiegare subito che cosa fa adesso. Cos'è Elco? Elco fa parte del gruppo Ariston Thermo, leader mondiale per quanto riguarda l'acqua sanitaria, quindi un'eccellenza italiana, e tra i primi player mondiali per quanto riguarda il riscaldamento. Ha come mission il fatto di spingere e incentivare l'uso delle energie rinnovabili con un piano ben dettagliato fino al 2020. E Elco è il brand che è utilizzato per quanto riguarda prodotti premium e le applicazioni del terziario e del commerciale. Ecco, energie rinnovabili ci sono tante cose, dai fotovoltaico alle biomasse, all'energia anche fatta in casa in un certo senso. Che cosa poi è specializzata la vostra azienda? Ecco, noi ci occupiamo del comfort per quanto riguarda il riscaldamento e l'acqua sanitaria, quindi ad esempio abbiamo fatto delle scelte precise di non essere presente ad esempio nel fotovoltaico, che pur rappresenta una quota di fatturato, anzi la quota di fatturato principale nelle rinnovabili. Ma abbiamo fatto una scelta dettata sia dalla nostra storia sia anche dal fatto che crediamo veramente che negli anni a venire sarà la sfida del futuro. Io guardavo gli ultimi rapporti e veramente Enea è veramente impensabile che l'Italia oggi consumi il 70% in più della Germania per quanto riguarda il riscaldamento e le case, e questo ci deve far riflettere anche sul lungo percorso che avremo d'ora in avanti anche nel modificare radicalmente il concetto di edilizia, il concetto anche degli impianti che soddisfano le esigenze delle nostre abitazioni. Ecco, qui le statistiche possono sempre essere viste in due modi diversi. Il fatto che l'Italia sia indietro vuol dire che c'è un grande spazio di mercato, ma il fatto che sia indietro vuol dire che ci sono anche delle condizioni oggettive per cui è indietro. Quindi che cosa si può fare per sviluppare le energie alternative e che cosa non si è fatto per sviluppare le energie alternative? Ma guardi, oggi l'Italia ha dimostrato nel fotovoltaico che si riescono a recuperare in fretta diverse posizioni, probabilmente anche con incentivi molto importanti. L'Italia rimane attualmente il paese al mondo con gli incentivi più elevati. Sul riscaldamento siamo ancora indietro. Lei consideri che mentre la caldaia a condensazione, ad esempio, è diventata oramai uno standard in Europa, oggi meno di 3 caldaie su 10 sono a condensazione. Questo è un grosso limite e peraltro la crisi sta ulteriormente incidendo su queste percentuali, perché chiaramente le famiglie soprattutto devono misurarsi con la loro capacità di acquisto e questo non avviene. E questo fa sì che non si riesca ad ottenere dei risparmi e che, come dicevo prima, le abitazioni poi diventano molto energivore, sia come impianti che come anche poi strutture dell'immobile. Però anche e soprattutto con la maggiore attenzione, io credo che sempre di più ci tocca fare con i consumi, con le bollette del gas e della luce per le utenze domestiche, vedo che in primis da parte dei costruttori edili, ma adesso anche degli utenti, si sta andando finalmente verso lo standard giusto. Quindi anche voi vi rivolgete anche al, diciamo, al pubblico, alla famiglia, non solo per i grandi impianti, ma anche per le piccole abitazioni, per i riscaldamenti individuali? Sì, beh, noi come gruppo abbiamo il brand principale per quanto riguarda l'utenza domestico che è Ariston. Elco, che è un'azienda svizzero-tedesca che ha 80 anni di storia e oltre 2.000 dipendenti in tutta Europa, in alcuni paesi siamo leader di mercato, in paesi con dei prodotti anche più evoluti rispetto alla media europea, ne cito la Svizzera, sicuramente si propone come partner per gli impianti più grandi e per gli impianti a più elevato valore aggiunto per quanto riguarda gli aspetti domestici. Esempio quelli in pompa di calore. Noi abbiamo presentato a Milano lo scorso mese il nuovo prodotto che si colloca ai nuovi vertici del mercato per quanto riguarda aspetti come efficienza energetica, silenziosità e non ultimo il design, perché è un qualcosa che sempre di più, soprattutto nelle applicazioni che vanno all'esterno, in giardino eccetera, viene apprezzato anche dal cliente finale. È molto diverso lavorare in un'azienda che produce o fa risparmiare energia, un'azienda dedicata alla velocità come Ducati, cioè essere ingegnere in Ducati e essere ingegnere general manager come lei in Elco, cosa c'è di diverso? Ma Ducati sicuramente è rimasta nel mio cuore ed è un'azienda nella quale ho trascorso 8 anni in diversi ruoli con grandi soddisfazioni. Io ho studiato a Bologna proprio con l'idea di andare a lavorare poi in Ducati. In questo momento sicuramente il tema dell'energia, il tema dell'efficienza energetica è il tema, credo, più importante sul tavolo di tutte le aziende. Basta guardare ad esempio anche le pubblicità che oramai dall'acqua minerale alle auto, eccetera, fanno riferimento al risparmio energetico. Quindi una grande sfida, interessante. Tra l'altro il passaggio da Ducati al gruppo Ariston Elco è avvenuta con 3 anni in Cina, che per me sono stati anche molto importanti per capire ancora di più anche con l'inquinamento cinese, ma poi tutti i principali produttori mondiali ormai vengono da quell'area lì del mondo, quanto il tema dell'energia sarebbe diventato determinante per il resto del mondo. Allora, un piccolo segreto su Ducati, forse ce lo può dire, perché Valentino Rossi non riesce a vincere? Ma guardi, forse l'ha chiesta la persona sbagliata, nel senso che io da quando ho visto Stoner in Ducati ho capito che per Valentino sarebbero arrivati dei tempi duri. Sono un italiano un po' fuori dal coro, però spero, ho sentito anche le ultime interviste, che anche se non è stato velocissimo nelle ultime gare riuscirà a far meglio in futuro, altrimenti io sono dell'idea che è meglio cambiare e cercare per ognuno delle due realtà, che sono due realtà vincenti, lo sposo o la sposa ideale. Ecco, anche questo appunto, ci può essere un feeling con una moto, si può non andare d'accordo con un certo tipo di moto, non è che le moto possono essere una uguale all'altra, forse la moto più che la macchina è una realtà diversa in cui bisogna in fondo sposarsi. Su questo non ho assolutamente dubbi. Io stesso personalmente da motociclista penso al 996 per esempio, o delle moto che sono rimaste nel cuore. È un modello della Ducati per chi ci ascolta. Che rimangono nel cuore più di altre, assolutamente. Ecco, Ducati è un marchio storico dell'industria italiana, adesso è stato ceduto ai tedeschi dell'Audi, hanno fatto un buon affare. Assolutamente sì, ma poi io, e anche qui forse dico qualcosa che va contro quello che ultimamente si sente dire, credo che sia una grande opportunità per l'azienda, per i dipendenti dell'azienda e anche per il distretto del Bolognese, dove peraltro io continuo a risiedere, perché sono convinto che un gruppo importante e serio come il gruppo Audi permetterà a un brand forte e a degli ingegneri molto validi, quali quelli che sono a Borgo Panigale, di investire in ricerca e sviluppo, di continuare a crescere e secondo me di aumentare ancora il trend di espansione che Ducati sta avendo soprattutto sui nuovi mercati, BRIC e non solo. Anche le moto possono avere un aspetto ecologico, si progetta una moto pensando anche ai consumi e al rispetto dell'ambiente, questo forse non ci si pensa spesso. Beh, adesso si inizia anche a pensare, ho visto che anche l'ultimo salone dell'auto, Ferrari, ha lavorato molto sul tema dell'ambiente, dell'impatto che le emissioni delle autovetture possono generare. Noi motociclisti forse ancora non abbiamo maturato questa coscienza così forte al pari dell'attenzione delle prestazioni, certo, e delle altre caratteristiche della moto. Alle prestazioni, al comfort, dipende poi da come ognuno vuole usare la moto. Grazie a Francesco Milicia, ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Siamo solo noi quelli che non hanno voglia di far niente, rubano solamente. Ciao, sono... generazione di sconforti. Ancora con Vasco Rossi, buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio. Buongiorno e buona domenica e buon pomeriggio anche a Francesco Milicia, che è qui con noi. Abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, general manager adesso di Elco Italia, ingegnere in Ducati fino a qualche tempo fa, un passaggio appunto dai motori ai sistemi per risparmiare energia, per sfruttare bene l'energia, per riscaldare le case e avere il minor impatto sull'ambiente. Ingegnere meccanico, laureato a Bologna, un'esperienza anche in Cina. Laureato a Bologna, abbiamo concluso la prima parte parlando un po' di questo distretto bolognese dei motori, questa esperienza che lei ha avuto in Ducati. Ecco, cosa c'è nel bolognese che fa crescere, che fa nascere questa voglia di fare moto? Non c'è solo Ducati, ci sono altre aziende, magari non ne facciamo il nome, ma ovviamente anche le automobili, da Ferrari, nome si può fare, ad altre automobili. Cosa c'è nell'animo bolognese o emiliano? Sicuramente il mix, no, di un po' di follia romagnola con poi le capacità anche meccaniche di tutto l'emiliano, non potevano che sposarsi geograficamente e anche culturalmente a Bologna. Oltre a Ducati, come ricordava lei, sono moltissimi i marchi più o meno fortunati che caratterizzano il distretto. Io ad esempio faccio il tifo ora per la scommessa che i due imprenditori milanesi stanno facendo con Motomorini, no? Che a qualche chilometro da casa mia, che venderà le moto solamente presso la fabbrica, facendo sì che gli appassionati dopo le vadano ad acquistare in azienda con la propria personalizzazione. Ma gli esempi potrebbero essere tanto. E un altro aspetto, non lo dimenticherei comunque, l'importanza dell'università e della scuola, della cultura di ingegneria meccanica a Bologna. Genio e sregolatezza, potremmo dire, genio che ci vuole per essere ingegneri, per fare delle cose di altissima qualità, ma anche un po' di pazzia poi in fondo, perché essere motociclisti, lei è ancora un motociclista. Assolutamente, sì. Ducatista. Più Ducatista, no, beh certo, ci sono i motociclisti, ci sono i ducatisti. Ducatista, ma Ducatista peraltro mi parlava di un modello, non l'ultimo modello, non segue. Un Hypermotard 1100. Quindi una di prestazioni abbastanza spinte. Ecco, sotto questo profilo, cosa può fare il sistema Italia per essere più competitivo all'estero? Guardando appunto ai settori in cui ha operato con Ducati e opera adesso con Elco. Guardi, adesso senza voler entrare in ambito politico, che è già particolarmente caldo in questo periodo, sicuramente la riforma che va nell'ottica di rendere più flessibile il lavoro è un aspetto importante, ma quello che credo sia fondamentale è il fatto di poter continuare a fare ricerca, magari con dei fondi italiani. Prima si accennava al fatto che sicuramente Ducati con Audi potrà farlo, è opportuno quanto mai che si riesca a continuare a fare ricerca anche per aziende di dimensioni o meno fortunate di Ducati. E poi uno scambio sempre maggiore tra università e aziende è fondamentale. Io sono entrato in Ducati proprio a seguito della tesi di laurea, ma già dall'anno precedente avevo avuto l'opportunità, risiedendo a Bologna, di entrare a far parte dell'universo Ducati e di capire come funzionava l'azienda. E questo non ovunque è possibile. Purtroppo vediamo quello che sempre più spesso avviene, cioè che giovani non appena laureati devono spostarsi all'estero per trovare delle aziende dove possono coronare i propri sogni o le proprie idee. Ecco, c'è stato un periodo, forse dopo il miracolo economico, ma anche molto più avanti, in cui le aziende cercavano proprio i laureati, facevano molte offerte. Adesso per i giovani è più difficile entrare. Come vede i giovani di oggi? Cosa ti può consigliare a un giovane che esce dall'università o che sta finendo l'università per entrare nel mondo del lavoro? Certamente accennava a fare un'esperienza all'estero, può essere anche un'ipotesi che contribuisce ad arricchire la propria esperienza, la propria professionalità. Questa domanda mi è capitato di riceverla anche qualche tempo fa in dei convegni sulla Cina, sull'Oriente appunto. È sicuramente un tema importante che io mi sento di consigliare assolutamente a tutti coloro che hanno la possibilità di viaggiare, di spostarsi all'estero, soprattutto in paesi che in questo momento hanno una dinamicità maggiore di quella del nostro paese. L'altro aspetto è, anche se in questo momento può sembrare quanto mai difficile, di non scegliere la propria professione o il proprio ambito settoriale in base ai consigli degli altri o a quello che oggi rappresenta magari magari una maggiore disponibilità di posti di lavoro, bensì di perseguire, anche se magari richiederà un maggior tempo poi per raggiungere i risultati, le proprie passioni, gli ambiti che ci affascinano di più, perché questo è sicuramente quello che ti permette di avere quella marcia in più oggi e di affermarti nella propria professione. La passione va anche coltivata in un certo senso, e quindi va coltivata anche la possibilità di trovare le soluzioni che possono essere più confacenti alla propria ispirazione, alla propria vocazione. Ecco, guardando un po' all'estero, lei è stato in Cina, ha vissuto per qualche anno in Cina, ha lavorato in Cina. Tre anni in Cina. Come ricorda la Cina, come la giudica? Come adesso viene vista come la grande possibilità, la grande opportunità per cercare di rilanciare un po' l'economia anche italiana, una domanda che cresce. Com'è la Cina? Ma io ho un ricordo bellissimo della Cina, le dico, mio figlio più grande è nato in Cina, quindi io sono stato lì con, all'epoca, la mia compagna, adesso mia moglie, è madre di due bimbi, di cui il primo, come dicevo, è nato in Cina. Noi ci siamo trovati molto bene, abbiamo avuto la possibilità di vivere anche in quella parte di Cina che sempre di più adesso potrebbe essere una parte di New York piuttosto che di, cioè, di Shanghai. Esatto, e anche la zona limitrofa. Noi vivevamo, per la precisione, a Suzhou, che è considerata dai cinesi insieme ad Hangzhou la città più bella di tutto il paese. Appunto, è un ricordo molto bello dal punto di vista professionale. Sicuramente le opportunità che offre, che ha offerto la Cina in questi anni ai tanti espatriati che appunto hanno avuto modo di fare questa esperienza, ma anche un'esperienza di vita. Dal punto di vista professionale sono stati degli anni bellissimi. Thermowatt, che era l'azienda di cui mi occupavo, ha quasi triplicato il fatturato in tre anni. Sono numeri che sarebbero impensabili sicuramente in Italia. Io mi occupavo sia degli aspetti commerciali che di quelli industriali, e venendo da una realtà difficile anche dal punto di vista dei rapporti sindacali, come può essere l'area emiliana e anche Ducati in particolare, all'inizio il fatto di poter implementare, sviluppare nuovi progetti, nuove linee di produzione, recependo un importante entusiasmo da parte delle maestranze, è stata veramente un'esperienza molto molto bella. Ma in pratica vuol dire che è in fondo più semplice lavorare in Cina che non lavorare in Italia, fare, progettare, eseguire. Beh, dal punto di vista industriale è sicuramente, a livello di infrastrutture, a livello di disponibilità di risorse umane. La Cina adesso ha una popolazione, soprattutto mi riferisco alla fascia costiera, no? di ingegneri magari con l'MBA di 30 anni, con una voglia di fare impressionante, con un ottimismo che sempre con maggiore difficoltà riesce a connaturare noi italiani, vista la situazione attuale. È molto più complesso dal punto di vista commerciale del business. Sicuramente per fare affari, come si suol dire, in Cina bisogna trascorrere degli anni lì. Probabilmente la mia stessa permanenza è stata troppo breve per completare questo tipo di percorso. Bisogna riuscire ad entrare nel loro modo di pensare, comprendere le differenze che ci sono anche rispetto a noi italiani. E però devo dire che, per quello che riguarda la mia esperienza di quegli anni, di questi tre anni in Cina, sicuramente il bilancio è molto molto positivo. Sono molto contento e ho lasciato diversi amici in Cina con i quali, tramite gli strumenti tecnologici, e spero anche in futuro in maniera più frequente e anche fisicamente, riusciamo a mantenere i contatti. Ecco, che cosa può fare l'industria italiana per essere maggiormente presente, per esportare di più, ma anche per essere presente sul mercato cinese, sfruttando appunto le opportunità di questo mercato anche a livello di ricerca, a livello di marketing? Beh, sicuramente la Cina rappresenta un investimento a tal punto rilevante che tante delle nostre realtà, che si caratterizzano da una dimensione medio-piccola, fanno fatica ad avere gli investimenti importanti per permettere di arrivare in un mercato del genere. Noi come gruppo, grazie alla lungimiranza del nostro presidente onorario, dell'ingegner Merloni, siamo arrivati in Cina molto presto, nell'87. market. Il gruppo è riuscito a capire prima degli altri sicuramente quanto mercati importanti tipo Vietnam, Russia, India e Cina sarebbero diventati importanti ad affermarsi prima commercialmente e poi industrialmente in paesi del genere. Quindi essere un'azienda globale è fondamentale adesso per un'azienda che voglia crescere, quindi diventare presente su tanti mercati. E comunque focalizzarsi su quello in cui si riesce ad essere vincenti, non pensare, non guardare la Cina come un'opportunità dove si riesce, un mercato dove si riesce ad entrare senza essere distintivi in qualcosa di specifico. Siamo solo noi in fondo, come dice Vasco Rossi, come abbiamo iniziato questo programma. Grazie a Francesco Bilicia di essere stato con noi, ci ha guidato un po' sulla moto, un po' sui problemi del risparmio energetico, dello sfruttamento appunto delle risorse della terra, con una panoramica su come sta andando l'industria italiana nei confronti rispetto anche ai grandi colossi, grandi opportunità come quello cinese. Grazie a Francesco Milicia, grazie a Roberto Scartritti in regia, Luca Cremonese in redazione, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.